Now listen to that new language in context in the dialogue. E lei cosa mangia? Me? Oh, bread, butter, jam. What's that in Italian? Questo è il pane. Bread. Pane. Questo è il burro. Butter. Yes, burro. Esatto. E questa è la marmellata. Jam. Not marmalade. No. Marmalade si dice marmellata di arance. Marmellata di... arance. Oranges? Esatto. E il cappuccino le piace? Oh sì, il cappuccino... mi piace. Ok. Mi piace molto. And how do you say cereal? I cereali. Cereali. Mi piace cereali. Mi piacciono. Mi piacciono i cereali. Plurale. Mi piacciono i cereali. Ok? Perfetto.